Capitolo 10. La cosa dai molti splendori. Agosto 1950. Per tutto luglio e per i primi 12 giorni di agosto vissi una vita sospesa, oppressa da un'ansia informe, in attesa non sapevo di che cosa. Soltanto un telegramma di Mark. Leggi Ultimo Puritano di Santayana, libro meraviglioso. Come va la luna a Hong Kong? Mark. Non ricordo nulla di quel luglio fosco, smaltato di caldo e gonfio di nubi, se non la visita di Peter Dixon. Peter Dixon e la moglie Kay, una mia amica siamese, mi avevano ospitato con me nella loro casa di Bangkok durante il nostro viaggio a Hong Kong dall'Inghilterra. Ed era stato Peter Dixon a dire a Mark più di un anno e mezzo prima: «Quando sarai a Hong Kong, telefona alla dottoressa Han, è una cinese con molto cervello». E proprio per questo Mark non l'aveva fatto. Una cinese medichessa e per lo più dotata di cervello rappresenta una combinazione spaventosa. Peter venne a prendere il tè a Conduit Road. Cielo, che magnifico aspetto avete, Su Yen! Kay sarebbe sbalordita del vostro cambiamento. Siete persino diventata bella. È stato Mark, spiegai. Lo so, Mark mi ha raccontato tutto quando è venuto a Bangkok quest'anno e non vi nascondo che ne sono rimasto assai sorpreso. Eravate entrambi tanto convenzionali, tanto pieni di inibizioni. È stato Mark. Già, disse Peter, ma soltanto quando l'ho rivisto ho potuto rendermi conto di quello che era accaduto. Anche lui è molto cambiato. Oh, cielo, esclamò con un certo rimpianto. Come vorrei poter sentirmi così anch'io. Kay ed io ci vogliamo molto bene, ma naturalmente alla nostra età. È stato Mark, ripetei per la terza volta. Peter ha un anno meno di Mark e tre più di me. Non continuate a ripetere, è stato Mark, esclamò Peter con una certa irritazione. Suppongo che sia la prima volta che vi accade una cosa simile. A me non era mai accaduto, ammisi. È stato Mark. Poi Peter passò a quello che gli chiamava un punto di vista pratico, cercando di farmi capire come non potessi aspettare Mark per un numero infinito di anni. Mi diede molti buoni consigli che ascoltai attentamente, annuendo, e quando ebbe finito gli sorrisi dicendo: «Grazie, Peter, ci penserò». Quella domenica mattina scesi a colazione coi nervi inspiegabilmente tesi. May stava già mangiando e Fiona, che era andata a sorvegliare il pasto dei cani, rientrò nella stanza col fazzoletto ancora allacciato intorno al capo e venne a sedersi accanto a me. Accidenti, che caldo! Tetty Bogle non ha voluto mangiare la sua zuppa. Sono arrivati i giornali? Ogni giorno aspettavamo ansiosamente i giornali per avere notizie della guerra e James ascoltava anche il notiziario dell'una alla radio. Fiona, le dissi. Mi sento sulle spine. Tanti corrispondenti di guerra sono stati uccisi o risultano dispersi. Oh, Su Yen, i giornali dicono che ci sono 270 corrispondenti in Corea. La percentuale delle perdite è minima. Hassan portò il Sunday Herald arrotolato nella sua fascetta ed io attaccai la prima fetta di pan tostato. Fiona strappò la fascetta, ma non appena ebbe aperto il giornale la sentii sobbalzare. Su Yen, che c'è? Che è successo? La guardai. Il suo sguardo era fisso e orribilmente doloroso. Si tratta di Mark? Chiesi. Sì, no, no, non guardare, Su Yen. E Fiona coprì il giornale con la mano aperta. Morto o prigioniero? Chiesi. Morto. Oh, Su Yen, Su Yen! La sua voce si spense in un singhiozzo. Non è vero. Mi ribellai. È assolutamente ridicolo. Dammi quel giornale. La notizia era riportata a caratteri cubitali proprio nel mezzo della prima pagina. Fiona, non è vero. È una menzogna, Fiona, è una menzogna. È vero, Su Yen, disse Fiona. May aveva smesso di mangiare e mi guardava. Mark è morto, cara, le dissi allora. Poi uscii dalla sala da pranzo. E mi sembra di aver fatto molto baccano. Aprii una porta rumorosamente e senza rendermene conto mi trovai nel salotto a guardarmi intorno. Eccola la poltroncina a righe, vuota. sedetti nella mia poltrona senza mai perderla di vista. Se l'avessi fissata abbastanza a lungo, egli vi sarebbe ritornato. Ma non venne. E allora compresi che sarebbe sempre stato così. La stanza vuota, la sedia vuota, ed io immobile in eterna, inutile attesa. Dolcemente i minuti passavano. Dolcemente la vita riprese. Riprese a squillare il campanello e il telefono, e con le loro voci e le loro lacrime ritornarono alcuni di quelli che avevano riso con lui, che avevano mangiato con lui e che gli avevano voluto bene. Il mattino seguente padre Lowe celebrò una messa per Mark, presenti soltanto Fiona ed io, e May scrisse nel suo diario: avevo un amico che voleva sposare la mia mamma e la mia mamma voleva sposarlo, ma non fu possibile e ora lui è morto. Peccato. Dopo 2 giorni, le lettere di Mark cominciarono ad arrivare ad una giunsero, ad una, 18 lettere dalla Corea. E questo fu tutto. Parte quarta. Conclusione. La fine e il principio. Dopo, come accade sempre, quando un uomo è morto e non può più dare ombra a nessuno, cantarono le sue lodi, esaltarono il suo coraggio e la sua nobiltà, dissero come avesse spesso sfidato la morte, passeggiando con indifferenza fra il crepitio delle pallottole, e il suo nome divenne sinonimo di eroismo. Lodarono la sua calma, la sua imperturbabilità che infondeva fiducia in tutti quelli che gli stavano vicini, parlarono della sua gentilezza, della dolcezza del suo carattere, della sua tolleranza e comprensione e deplorarono la sorte maligna che aveva tolto al mondo tante qualità proprio quando più ce n'era bisogno. I suoi amici ritornarono dalla guerra e raccontarono tante cose belle sul suo conto, e tra questi anche David, che sembrava ansioso che io non facessi nulla che potesse offuscare una memoria divenuta per lui sacra e quasi sovrumana. Voleva scrivere un libro su Mark. Sarebbe stata la vita di Mark e un buon libro. Io lo avrei letto un giorno e avrei così saputo quello che Mark aveva fatto nell'anno tale, dove i suoi vagabondaggi l'avevano portato, che amici aveva avuto, chi aveva riso con lui, poiché dopo tutto io l'avevo conosciuto soltanto per un anno, un mese e pochi giorni. David mi consigliava di fare i bagagli e di tornarmene in Cina e seppellirmi nel mio lavoro di medico per dimenticare Mark. La mia idea di scrivere un libro non gli andava affatto a genio. Sarebbe un sacrilegio, non vi pare? Mi disse. Ed un tratto mi resi conto che agli occhi di David la nostra cosa dai molti splendori, mia e di Mark, costituiva un'offesa. David non aveva compreso Mark, ma avrebbe scritto un buon libro su di lui facendone un immacolato superuomo. E una volta di più, compresi come le persone giudichino tutto quello che vedono e sentono col metro della loro anima e secondo le possibilità della loro mente. È quindi probabile che i moralisti trovino in questo libro di che indignarsi, che i politicanti vi scoprano tendenze perverse da sfruttare a loro vantaggio e che coloro che hanno la mente sporca, i pomposi e i ciarlatani, se la spassino un mondo senza darlo a vedere. Ostentando ribellione per la violenza fatta al loro spirito di proprietà, ai loro sentimenti più intimi, alla loro ipocrita reticenza. Fui grata a David di avermi fatto capire tutto questo, ma continuai ugualmente a scrivere il mio libro. Ormai non mi era più possibile fermarmi. Così rimasi a Hong Kong, sulla roccia bagnata dal mare, unico luogo in cui avrei potuto scrivere questo libro. In Cina non mi sarebbe stato possibile e non avevo altro posto dove andare. Mi cercai un altro impiego e lavorai di giorno, scrivendo di notte. Di notte il suo spirito gentile mi fa compagnia, con la mia mano stretta nella sua, lo seguo sicura, nell'oscurità e nel silenzio. Le stelle scintillano gioconde in cielo e la flottiglia dei pescatori esce allegramente in alto mare, mentre la luna, nostra amica, va a dormire. Io siedo e sogno, Ritengo strano e meraviglioso che il mio amore sia stato uno straniero, un uomo incontrato per un fortunato caso, un passante in un'isola di passanti, e che per questo amore, leggero come un uccello in volo e terribile come la fine del mondo, io sia stata trascinata nella vita da un sonno gelido e inumano. Ora non posso più tornare indietro. Ora ci sarà sempre Mark, simile a una piccola risata argentina, sotto il frastuono degli altoparlanti, il puro canto di un uccello, in mezzo al delirio delle folle. Mark e la carezza dei suoi occhi e delle sue mani, che ancora mi tengono e mi salvano da tante cose nemiche dell'anima umana, dalle dottrine intolleranti e infallibili, dall'odio, dal cinismo, dall'amarezza e dalla frenesia delle masse. Poiché egli era gentile e mite, e la sua tenerezza mi avvolgeva tutta, e non c'è nulla al mondo che sia più forte della tenerezza. Grazie alla cosa dei molti splendori, Mark era morto felice. Fortunato Mark, esclamò François, come lo invidio, è morto come voleva morire, giovane e invulnerabile, avvolto in un amore stupendo, sapendo di aver vissuto una vita degna di questo nome. Il a toujours eu de la chance, Marc. Queste parole mi resero felice, anche se dubitavo che François le avesse dette per consolarmi, poiché in quel momento Adeline Palmer Jones, in un abito azzurro pallido disseminato di paillettes, aveva appena finito di gettarmi pubblicamente le braccia al collo e di attirare il mio corpo riluttante contro la sovrabbondante morbidezza del suo, ripetendo parole incoerenti delle quali avevo afferrato soltanto tragedia, terribile tragedia. Cara Adeline, le sue intenzioni erano buone, ma il suo cuore era assai meno comprensivo di quello di Lilivù. Incontrai Lilivù, eccezionalmente sola, mentre passeggiavo lungo la praia. Vide il mio sguardo e mi prese la mano. Allora è vero quello che dicono i giornali? È morto. Ma voi non dovete piangere, dovete ridere come facevate quando eravate con lui. Dovete essere sempre felici adesso per fargli piacere. Non gli piacerebbe vedervi piangere. Così siedo e sogno. Serena, perché devo esserlo e paga. Sogno come se ancora lo aspettassi, come se potesse tornare da un momento all'altro. Nel pieno mezzogiorno, nell'immensa calma del sole che amava tanto, oppure la notte sotto il fiume del cielo, come se lo potessi incontrare sulla praia, sorridente, con gli occhi azzurri come il mare, o sulla ghiaia del viale spruzzata d'oro. Mi viene incontro col suo passo leggero, la borsa variopinta gettata sulla spalla e i capelli scompigliati dal vento. «Guarda», dice il bambino, «guarda». Per un istante, alzandomi sulla punta dei piedi, ho potuto afferrare il cielo. Guarda! Nelle mie magiche mani vuote stringo tesori favolosi, l'immenso nulla dei cieli, l'infinito vuoto dello spazio, la veloce magia del tempo. Guarda come mi ha trasformata, poiché sono ora incoronata di rinuncia, ammantata di assenza, insediata sul trono del nulla, gloriosa imperatrice dello splendore e della ricchezza dell'amore e della morte. Siedo e sogno, come se il mio sogno fosse realtà, perché ora, come Mark, non so più che cosa sia sogno e che cosa sia realtà. Se di un sogno si tratta, allora il mio è stato un sogno meraviglioso, che mi protegge dalla notte e che l'alito del cielo stesso non può disperdere. Ho fatto un sogno meraviglioso, di vita, di amore, di morte, di risa e di lacrime, di bene e di male. E tutte queste cose sono uguali sotto il cielo, che tutto eguaglia. Ho un sogno meraviglioso, la mia cosa dai molti splendori. Iniziato a Hong Kong nel settembre 1950, terminato a Hong Kong nel luglio 1951. Fine.